e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Il Gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti i visitatori del Salone del Libro e anche ai gastronauti che sono magari a casa o in viaggio. Ebbene, oggi faremo una trasmissione molto particolare perché potrà intervenire anche il pubblico, fare le domande a quello che ho definito il Gotha della ristorazione piemontese. Abbiamo con noi infatti Cesare Giaccone, abbiamo Alfredo Russo e Walter Ferretto qui, poi ne avremo molti altri in diretta con noi, ai quali appunto dicevo sia da casa che qui potrete fare tutte le domande che volete, potrete benissimo torturarli e magari anche domande molto scomode. Bene, un po' il tema è se il cuoco è la professione del futuro con l'interrogativo. Io dico sempre che ormai le veline non cercano più i calciatori ma cercano gli chef, perché sono diventati ormai un punto fermo del sistema mediatico, quindi sono diventati di moda. Non so se Cesare Giaccone magari così la pensa alla stessa maniera, visto che fa parte della vecchia guardia, ma poi glielo chiederemo. E allora dicevo, si può intervenire anche da casa, ricordo 800 24 00 24, oppure sms 349 238 6666. Quindi io vorrei prima cominciare, invito il pubblico, fate pure le domande, alzate la mano e vi sarà passato un microfono per intervenire direttamente. Allora vorrei cominciare un po' da questo, da Cesare Giaccone appunto, che è lo chef da Cesare, è un personaggio notissimo, con una lunga storia alle spalle. Ma Cesare, ma lei ritiene che ancora il cuoco sia una professione per il futuro per i giovani, oppure ritiene che invece ci siano molte difficoltà nel futuro appunto di chi intraprende questa professione? No, sarà sicuramente un seguito per un giovane molto importante. Col turismo, l'Italia, i valori che ci dà l'Italia, i terreni che ci dà l'Italia, secondo me ci sarà un grande avvenire nel turismo e nella cucina. L'importanza è di stare attenti alla produzione. Ecco, ma si guadagna tanto facendo il cuoco? Ma direi si guadagna per vivere bene. Ma è un cuoco, quanto sì. Può guadagnare al mese? Poi lo chiederò anche agli altri colleghi. Si può partire da un minimo all'inizio di 600-700 euro al mese, si può arrivare anche a 14-15 mila euro al mese. Bene, abbiamo già una radioascoltatrice in linea, Elisabetta da Roma. Buongiorno Elisabetta. Buongiorno dottor Paolini, che piacere finalmente poter parlare con lei. Intanto toccate questa mattina un argomento che per me è la nota dolente, in quanto io ho 52 anni e ho lavorato fino a poco tempo fa, poi mi hanno messo purtroppo, ahimè, in cassa integrazione. Oggi mi posso dedicare, però ti ripeto, purtroppo solo a tempo perso, alla passione della cucina. Data la mia età, visto che voi parlate sempre di giovani, vorrei sapere una cosa: come mai non si apre una piccola porta, un piccolo spiraglio per chi vuole accedere a questa professione senza incappare in questi prezzi altissimi che hanno le scuole, vedi quelle del Gambero Rosso, che per carità è molto professionale, altamente qualificata, però ripeto, nel settore è sempre tutto molto caro e così poco accessibile, e credo che sia purtroppo fatto per un pubblico di nicchia che se lo può permettere. Chi come me invece purtroppo non ha grandi capacità economiche si vede costretta a frequentare corsi che costano comunque tantissimo, ma magari solamente per uno o due serate, perché i corsi che ti preparano e ti qualificano professionalmente sono veramente esosi e molto cari e non Bene. Sono la portata di abbiamo capito il senso della sua domanda. Magari se c'è qualcuno tra il pubblico che vuole intervenire su questo argomento, ben volentieri, basta alzare la mano. Se non c'è nessuno, allora rivolgo questa, diciamo, giro questa domanda a Alfredo Russo. Ma Alfredo, ma veramente costa tanto appunto per fare corsi per diventare chef o cuoco? Beh, i corsi ovviamente hanno dei costi proporzionati alla scuola dove si va. Diciamo che comunque se si vuole intraprendere questa professione e farlo diventare il proprio lavoro, il consiglio che posso dare è quello di andare in qualche ristorante, partire dalle basi, da diventare prima un aiuto, un commis di cucina, e solo lì si può vivere il quotidiano di un ristorante, le varie stagioni, e si può capire i ritmi e tutte le lavorazioni che ci sono dietro una cucina professionale. Ecco, ma volevo chiedere a Walter Ferretto, ma voi aprite le porte a chi vuole imparare oppure è difficile? Buongiorno, assolutamente apriamo le porte, sono spalancate, non solo le apriamo, perché c'è sempre bisogno di inserire. E la signora dice bene, soprattutto noi, almeno per quanto mi riguarda, io cerco giovani da inserire perché possono creare continuità e mi possono dare una garanzia. Una certa età e quindi fatto in stile un po' hobbistico oltre i 45-50 anni diventa un po' un problema trovare una sistemazione in una cucina di un ristorante. Cioè, si possono trovare per fare dei corsi, però logicamente non si può pensare a una professione a quell'età lì e cambiare, perché noi anche per i vari costi che ci sono di assunzioni, contributi e tutto quanto, puntiamo ad avere stagisti, puntiamo ad avere dei giovani da tirare su e da formare che non abbiano già contaminazioni. Questo è importante, nel senso che se pensi a qualcuno che venga in cucina e vuoi dare un indirizzo tu, è giusto prenderlo. Almeno io preferisco prendere ragazzi non troppo stagionati. navigati, stagionati. E contaminati, sì. Bene, Gianna da Lecce, buongiorno, velocissima. Buongiorno, sicuramente è molto difficile superati 40 anni trovare un posto da cuoco, ma è altrettanto difficile aprire un'attività propria. Quindi volevo dare un'idea per un'alternativa. Io sono riuscita a realizzare un progetto che parte tra poco di scuola di cucina, cioè anziché stare dalla parte di dietro, stare dalla parte davanti con i turisti ad insegnare la cucina della mia terra. E questo mi ha portato a dare la possibilità a tre ragazzi della scuola alberghiera di lavorare con me. Ricordo numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, ma io invito anche il pubblico a fare qualche domanda, essere meno timido, alzate la manina, vi daremo un microfono per rispondere, anzi per parlare, per chiedere. Ma intanto sentiamo Innocente dalla provincia di Bari, un radioascoltatore. Buongiorno Innocente. Buongiorno Davide, intanto complimenti per la sua trasmissione che seguo spesso anche in replica. Io sono un docente dell'Istituto Alberghiero, quindi un professionista della ristorazione, insegno l'alberghiero da oltre 25 anni, quindi abbiamo contribuito per tanti anni a formare generazioni di cuochi, di giovani cuochi e di grandi chef di cucina. Una sola considerazione, la difesa di queste istituzioni, io ritengo che sia fondamentale, lei può fare molto, i suoi ascoltatori, le istituzioni in generale, ma anche e soprattutto tutti coloro i quali in maniera professionale lavorano in questo settore. Io ritengo che la migliore palestra in assoluto sia la scuola alberghiera. Quest'anno si festeggiano mediamente i 50 anni di questa istituzione, un po' le prime scuole alberghiere sono sorte in Italia a fine anni 50. Purtroppo adesso si è smesso di credere in questa istituzione, in questa forma di formazione nel settore della ristorazione che tende oggi a non essere più creduta sia dalle istituzioni sia dagli operatori del settore. Grazie Innocente, abbiamo capito, rivolgiamo la stessa domanda ai nostri ospiti, a Cesare Giaccone. Cesare, cosa ne pensa delle scuole alberghiere? Un ragazzo fa bene a fare questi 3 anni o 5 anni che possono essere, però io consiglierei a chi non può fare la scuola alberghiera di iniziare con una zappa e provare a zapparsi e farsi un orto, se riesce, se ha la possibilità. È importante che un ragazzo riesca a capire la valutazione del prodotto, dare del tuo al prodotto, e queste scuole dovrebbero inserire nella scuola anche l'agricoltura, secondo me è una cosa molto molto importante. Sentiamo Michela da Roma, un'altra radioascoltatrice. Buongiorno Michela, oggi è Roma la città vicina. Buongiorno, sì, chiamo da Roma. Senta, volevo fare proprio una domanda scomoda per le scuole che in pratica escono fuori questi ragazzi che escono fuori come cuochi, però in pratica questi cuochi non sanno fare assolutamente niente, perché io ho potuto constatare, non con uno, ma con tanti ragazzi o ragazze che escono fuori con la teoria che fanno, gli danno solo la teoria, però quando escono dalla scuola con tutti i soldi che spendono, mi risulta a me personalmente che questi ragazzi, come li metti davanti ai fornelli, non sanno neanche quanto olio devono mettere nella padella. Bene, grazie come, Michela. Come è possibile tutto questo? Grazie Michela, sentiamo Walter Ferretto, è vero, è così Walter? Una puntina di ragione la signora ce l'ha. Certo, non si può pretendere che passati 3 anni in una scuola alberghiera uno possa mettere piedi in cucina e mandare avanti o comunque essere in grado di portare avanti anche solo una partita. Deve avvicinarsi con cautela, deve imparare i meccanismi del campo. Cioè, il signore prima parlava della palestra, certo, le scuole alberghiere sono delle ottime palestre, poi però bisogna andare sul campo di gioco. Il campo di gioco è la cucina di un ristorante, dove con ritmi, con tutto quello che c'è, il ragazzo giovane inizia a prendere le misure e se ha volontà, cuore, umiltà soprattutto, può venire fuori qualcosa. Ecco. Bene, abbiamo un radioascoltatore in sala, prego. Buongiorno, il mio nome è Sandro, i complimenti sono sottintesi, però vorrei esprimerle il piacere di vedere la radio in diretta quasi come se fossimo davanti alla televisione. Vengo alla mia domanda. Quali sono i casi, perché si diventa un cuoco famoso? Ecco, io ho più di 50 anni, quindi non posso studiare, non mi conviene studiare, non mi assumono in una cucina, la mia azienda non è in crisi, quindi non sto cercando un'alternativa occupazionale, però come potrei, cioè no, non io, mi piacerebbe diventare un grande cuoco famoso, però quali sono la fantasia, l'estro, l'esperienza, certo, la conoscenza, eccetera eccetera. Chiudo così, grazie. Sentiamo Alfredo Russo cosa ne pensa. Ma io credo che l'obiettivo quando si decide di fare il cuoco non è quello di farsi la domanda come faccio a diventare famoso. Spesso capita, soprattutto quando si è giovani, di partire con questo presupposto. L'idea è quella di, quando si lavora in una cucina di un ristorante, è quella di offrire un servizio, pensare al cliente, pensare al benessere del cliente che è in sala. Poi se si lavora giornalmente e si ottengono questi risultati, il fatto di diventare famoso, di ricevere degli attestati dalle guide, dai giornali, dalle riviste, così, è una conseguenza. Però l'obiettivo del cuoco è quello del cliente, che del tavolo che tu hai in sala, e devi lavorare, devi impegnarti al massimo per concentrarti su quello. Bene. Sentiamo Franco da Modena, buongiorno Franco. Buongiorno, io volevo rispondere a quel signore che ha detto che non assume personale contaminato, nel senso penso che abbia già fatto altri lavori, cioè, o in altre cucine. Il problema è questo, che quelli giovani se vogliono lavorare in un ristorante un po' decente non vengono pagati, gli altri che potrebbero e dovrebbero essere pagati, non, ha sentito anche lei, non li assumono, quindi... Cioè è difficile tirare fuori della gente professionale a questo punto, ecco, voglio dire questo. Bene, grazie Franco. C'è un SMS, ne ho tanti, ma ne uno che mi colpisce. Saremmo grati se ricordaste la figura dell'arrotino, Alessandro. Bene, credo che abbia ragione, perché l'arrotino e Cesare, è importante l'arrotino in una cucina? Moltissimo, moltissimo. L'arrotino, il coltello, l'arnese del cuoco, e allora va sempre filato, va tenuto bene, pulito, ordinato, cioè, la routine è importantissima. Bene, sentiamo Franco da Torino, radioascoltatore, buongiorno Franco. Sì, buongiorno, senta Davide, io volevo solo fare una considerazione sulle scuole alberghiere in generale. Sappiamo tutti che ormai sono diventate delle scuole parcheggio, cioè, secondo me andrebbero in qualche modo incanalate certe scelte, non dico creare delle barriere, però sappiamo che spesso i ragazzi che si iscrivono a queste scuole lo fanno perché è il modo più rapido per entrare a contatto col mondo del lavoro, senza però avere la passione per questo mestiere. Cioè, bene, questa è la mia considerazione. Grazie Franco. Franco, ma come mai non è al Salone del Libro? E visto che lei è a Torino. Sono venuto a prendere la figlia a scuola, sono vicinissimo. Bene, allora ci venga a trovare al padiglione 2, noi siamo, venga qua così ne parliamo, ne discutiamo direttamente. Bene, abbiamo una radioascoltatrice in sala che vuol fare una domanda, prego. Nonostante il gastronauta abbia lanciato quest'amo di quanto noi donne oggi subiamo il fascino dello chef, mi viene voglia di fare una domanda un po' più provocatoria, però. Parliamo di additivi. Noi ci siamo fatti il nostro pensiero, il vostro? Bene, allora bisogna dire innanzitutto che mi dispiace che qui non ci sia una chef donna, questa è così, è un, come posso dire, un dettaglio mancante. Sono d'accordo, mi spiace, chiedo venia, magari nella prossima trasmissione farò intervenire più donne. Ma il discorso degli additivi, bene, tutti ricordano la storia di Fornelli Roventi, quello che c'è stato, il provvedimento che è uscito, un provvedimento veramente incredibile, demenziale, lo sottolineo, provvedimento demenziale del Ministero della Sanità, e provvedimento incredibile che sicuramente non porta niente di nuovo dopo tutto il caos che è stato fatto attorno a questo, nel senso che non vieta assolutamente niente, dice semplicemente che il ristoratore deve avvisare di quello che utilizza giustamente, ma assolutamente non vieta quello che si diceva dovrebbe venire vietato, che era stato sequestrato. Però giro questa domanda a Alfredo Russo, poi anche gli altri. Cosa ne pensi, Alfredo? Concordo con quello che stavi dicendo tu, insomma, è un provvedimento che ci è arrivato sulla testa, che ha creato molte più confusione che chiarito le idee, insomma. In effetti gli additivi si sono sempre usati, io se ricordo faccio un pensiero alla mia nonna, quando faceva la torta, il pan di Spagna in casa usava una polverina, una bustina che serviva per lievitare, allora mia nonna usava gli additivi, che dobbiamo fare, insomma. Ma no, è così, ha creato confusione e in realtà non ha aiutato la categoria, ecco. Bene, sentiamo oggi veramente la giornata di Roma, un radioascoltatore, Pasquale da Roma, buongiorno Pasquale, viva Roma oggi allora. Bene, bene, sì, grazie signor Paolini, io sono stato un docente alla scuola Berghiera, anche se non del settore di cucina, perché mi occupo di marketing della ristorazione, ma la conosco comunque da un punto di vista professionale. Il problema delle scuole alberghiere oggi in Italia è che sono carenti di fondi, per cui per quanto riguarda i corsi di cucina hanno poca disponibilità per comprare materiali di valore e addestrare i futuri cuochi in maniera adeguata. E in molte situazioni purtroppo mancano anche di un progetto ristorativo, per cui questi ragazzi arrivano al terzo anno che hanno fatto poca pratica e soprattutto hanno poche idee confuse nella testa, e questo non fa bene al loro prosieguo professionale e crea anche quegli attriti con i ristoratori professionisti o proprietari di ristoranti che giustamente lamentano la carenza di conoscenze tecniche. Bene, grazie. Una domanda veloce a Cesare Giaccone da un radioascoltatore, un SMS. I giovani hanno ancora l'umiltà di fare la gavetta? Io penso di sì, alcuni giovani, io faccio gratuitamente a Fontana Fredda 3 mesi gratuiti a questi giovani dove diamo la possibilità, alloggio, vitto, alloggio, via dicendo. Vedo in cui su un anno sono passati circa 20 di ragazzi e ce n'è alcuni che, devo dire, fanno gavetta, sono proprio contento. Bene. Sono soddisfatto del lavoro che ho fatto in questo periodo. Grazie, grazie a Cesare Giaccone, Walter Ferretto e Alfredo Russo di essere stati con noi. Bene, stiamo trasmettendo in diretta anche con il pubblico e io invito il pubblico a intervenire come ha già fatto, e ricordo anche chi a casa può chiamare all'800 24 00 24, SMS 349 238 6666. Potete fare le domande ai nostri cuochi presenti. Ora abbiamo Nicola Battavia del ristorante Il Birichin di Torino e Stefano Vicina del ristorante Vicina, sempre di Torino. Abbiamo avuto prima, lo dicevo, Alfredo Russo, abbiamo avuto Cesare Giaccone e Walter Ferretto, che sono ancora in sala, quindi potete fare le domande anche a loro. Ebbene, Marina dalla provincia di Varese, che è tanto che è in linea. Buongiorno Marina, sì, mi scusi. Buongiorno Paolini, buongiorno a tutti. Volevo solo fare una piccola segnalazione, che a rispetto del nome francese e dell'attualità della professione del cuoco, già gli antichi romani avevano questo uso, cioè quello di anche affittare cuochi famosi per cucinare per i loro ospiti. Io l'ho letto in un libro, è una curiosità molto carina, c'era un certo Apicio, se non ricordo male. Beh, un certo, era un figo dell'epoca, insomma, era uno di quelli. Era un figo dell'epoca, ma è uno degli autori che ancora oggi tornano nelle cucine, molti, sì, cuochi lo hanno. Bene, siamo tempestati da telefonate, sentiamo Ezio da Vicenza, buongiorno Ezio. Signor Paolini, buongiorno, volevo portare una semplice esperienza che ho io. Questi ragazzi qua escono dalle scuole e vanno a fare un lavoro del quale non conoscono niente, non hanno mai fatto un'ora di cucina. Ed è un lavoro che richiede moltissima dedizione. Si lavora quando gli altri fanno festa i giorni di riposo nostri non sono quelli degli altri, e lo stesso problema c'è nella panificazione e anche nella pasticceria. Per cui è un lavoro che si può fare, però richiede dei grossi sforzi, e soprattutto sti ragazzi, pochissimi arrivano a fare questo lavoro, perché quando incominciano si rendono conto di cosa vanno incontro e mollano subito. Bene, grazie Ezio, ma qui oggi c'è un cahier de doléances, cioè tutti recitano la stessa storia, cioè negativa, ma siamo un po' positivi, insomma guardiamo un po' al futuro in maniera positiva. Certo, ci sono dei giovani che sicuramente sanno fare poco, però ce ne sono anche molto bravi come abbiamo visto. Beh, insomma, gli chef che avevamo presenti sono stati giovani anche loro, sono cresciuti e sono diventati bravi. Ma ora vorrei lanciare un altro argomento. Beh, ho anche un SMS che mi dice il 90% dopo i 23 anni non sono più nel campo della ristorazione, manca la vocazione. Ma è vero che manca la vocazione? Lo chiedo a Batavia. No, secondo me no, assolutamente. È un credo in crescente, Davide. E sicuramente il giovane deve essere stimolato sotto diversi aspetti, sia dalle scuole, dai genitori. È un piccolo credo che deve essere alimentato. Quando incontriamo i giovani, sta a noi dargli dei prospettivi futuri sicuramente più luminosi di quello che potrebbe essere. Beh, ora voglio leggere un SMS indirizzato ai nostri capi, vedo ce n'è uno in sala, glielo devo leggere perché è troppo divertente. Caro Davide, non voglio fare polemiche, ma come mai al Salone del Libro siete in mezzo al pubblico mentre al Vinitaly eravate lassù, irraggiungibili e quasi invisibili? Bene, magari Sandro da Verona, il prossimo anno saremo tra il pubblico, lancio io questa idea magari così. Sentiamo Armando da Milano, buongiorno Armando. Buongiorno, sono un papà di uno dei studenti che ormai adesso è un cuoco e vorrei dire una cosa come funzionano le famose scuole. Le scuole funzionano che quando mio figlio è andato a fare il famoso stage che la scuola manda nei ristoranti, questi ragazzi in genere sono sfruttati, li fanno pelare le patate, li fanno fare caffè, ma in cucina non sono andati. Io mi sono ribellato come papà, sono andato alla scuola e il tutor dov'era? Era in ferie, il tutor a posto di seguire questi ragazzi era in ferie. Per cui gli ispettori che devono controllare, io dico alla Germini, insomma tutta questa gente qua che di muoversi, di andare a vedere se le cose funzionano e non che stanno col sedere al caldo. Mi scusi. Bene, grazie Armando, ma questo rimprovero non lo deve far arrivare la Gelmini, perché le scuole professionali dipendono dalle regioni. Il problema italiano è molto questo, che manca un coordinamento e quindi ogni istituto regionale va per conto proprio, quindi secondo me sono le regioni che devono intervenire su questo. Ma ho visto che c'era in sala Alfredo Russo che scuoteva la testa quando si dice che i giovani sono mandati così nelle cucine dagli chef a pelare solo le patate. Prego. Sì, beh, quando si parlava prima di umiltà è proprio questa, cioè bisogna pensare che una professione difficile e complicata come quella del cuoco, bisogna partire dall'ABC. E pelare le patate non è un lavoro denigrante per un giovane ragazzo studente della scuola alberghiera, ma è proprio l'ABC della cucina. Quindi questo atteggiamento è uno dei problemi, che non c'è la voglia, l'umiltà e lo sforzo di voler partire dall'inizio, ecco. Sentiamo Paolo da Verona. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Io volevo portare un'esperienza, la mia esperienza, insomma, finita l'alberghiera avevo voglia e la volontà di fare. Ho iniziato dalle cucine e mi sono trovato, a dispetto dell'esperienza alberghiera, in una specie di industria, invece in un posto dove si creava del cibo ricercato o comunque un posto dove si faceva la buona cucina. Ho cambiato 3 ristoranti diversi in 3 stagioni diverse, ma alla fine mi sono convinto ad abbandonare e passare ad altro, insomma. La mia esperienza è stata questa. Io avevo all'alberghiera uno chef che chiamavo chef perché credevo a quello che diceva e lo rispettavo. Nelle cucine ho trovato invece delle persone che si facevano chiamare chef, ma non meritavano questo titolo, secondo me. Questa Bene, è grazie. La mia esperienza. Insomma. Grazie a Paolo da Verona. Sentiamo Tina dalla provincia di Milano. Buongiorno Tina. Buongiorno Torpolini. No, sentivo dire delle scuole alberghiere e io ho avuto l'occasione, perché ho avuto la residenza per un bel po', avendo una casa in Val d'Aosta, e ho anche frequentato un corso di cucina per il tempo che c'era riservato, disponibile naturalmente, nella scuola alberghiera che è di Châtillon adesso, e credo che sia una tra le più quotate. Ma non è assolutamente vero che questi ragazzi, cioè, non cucinano, non vedo le padelle, anzi, addirittura veniva ospitata la Juventus, lo sapranno un po' tutti gli anni, eccetera. È un hotel a 4 stelle e i ragazzi cucinano, e come, era conduzione, la direzione erano due svizzeri, e c'era un rigore, una professionalità impressionante lì dentro. Ecco, vedo che mi arrivano molti sms che così confermano quanto io ho detto, che le qualifiche e i tirocini sono le regioni a decidere, quindi non è il Ministero della Cultura, no, anzi il Ministero della Pubblica Istruzione. Bene, volevo fare una domanda a Stefano Vicina, ma voi avete nelle vostre cucine degli allievi che escono dagli istituti alberghieri, e che livello hanno se li avete? Ma sì, adesso noi abbiamo due ragazzi che ci aiutano, che sono arrivati entrambi da una scuola alberghiera, quindi comunque forse saremmo stati fortunati, nel senso che sono arrivati con voglia di fare, voglia di mettersi in gioco e voglia di imparare soprattutto, senza mai porre dei limiti al sacrificio, agli orari, ai riposi, e insomma, con la voglia di fare. Ne abbiamo avuti anche altre che insomma guardavano più al look che non a quello che dovevano fare, non volevano fare certi lavori, come si diceva prima, che pelare le patate sembrava un'umiliazione, però insomma. Quindi diciamo che i modelli sono Jamie Oliver, tanto per dire, insomma, il look è un po' tutta una serie così di cose particolari, il gesto, la gestualità, l'abilità nel parlare. Sì. Purtroppo queste cose qua le abbiamo notate, quindi insomma questa moda che però si scontra con l'effettivo mondo del lavoro e l'effettiva professione di essere cuochi è comunque un contrasto molto forte. Il pubblico tace, io vorrei qualche altra domanda dal pubblico, comunque voglio leggere un sms. Volete farci lavorare fino a 70 anni e ci considerate vecchi a 45-50? Per carità, assolutamente, Vittorio. Sentiamo Stefano da Piacenza. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti. Buongiorno al Salone del Libro, dove ero ieri. Buongiorno. Niente, io voglio dire solo la piccola esperienza di mio nipote Filippo, che fa il primo anno di scuola alberghiera al Marcora di Piacenza. E ho sentito dire molte persone che... e molti docenti, che oppure anche molti cuochi, che i ragazzi non hanno nessuna esperienza. Ebbene, mio nipote, che ha 15 anni, è già stato mandato in diverse feste paesane in divisa a fare pratica, a servire, a fare tutte quelle cose che fanno sia i camerieri che gli chef, e oggi pomeriggio da solo preparerà il rinfresco per la vernice di una piccola mostra che ci sarà a Vigoleno della zia. Per cui è in grado da solo di fare delle cose, dopo 6 mesi di scuola scarsi, che con la sperimentazione è riuscito a fare. Bene, a Vigoleno c'è un grande passito, speriamo che lo rispetti, speriamo che sicuramente quel passito sia servito al meglio. Ora passo la linea alla regia per la viabilità, torneremo fra poco, rimanete con noi. Bene, ho ancora una domanda, posso fare? Davide da Siracusa, buongiorno Davide. Buongiorno dottore Paolini, io sono un medico, non c'entro con l'ambito della ristorazione, però mi ponevo un dubbio. A me piace la buona cucina e vado spesso ai ristoranti. Ho sentito in tutti questi interventi i giovani che hanno difficoltà a inserirsi nel contesto. Io quello che invece volevo commentare è il fatto che spesso in televisione, soprattutto in alcune trasmissioni molto famose, si vedono dei giovani che sono, chiamiamoli così, dei fantasisti, non so come spiegarlo, inventano ricette con degli ingredienti portati all'ultimo momento, e io non capisco perché invece non si cerchi di trasmettere il senso delle basi della cucina, cioè apprendere, come diceva qualcuno pochi minuti fa, la gavetta, cioè imparare le cose, le ricette classiche. Davide, la devo interrompere, abbiamo capito, ne discuteremo, grazie. Devo dire che non mi aspettavo tante telefonate così, ne abbiamo tantissime ancora, tanti sms che toccavano il problema degli istituti alberghieri, però io vorrei svicolare un secondo, vorrei toccare un altro tema molto caliente, quello delle guide gastronomiche. Allora io vorrei chiedere, guarda caso, a Nicola Battaglia cosa ne pensa delle guide gastronomiche. Senti tesoro. Non ho un pensiero proprio prefissato sulle guide. In ogni caso sono decisamente molto importanti. Oggi per fortuna non è solo importante il cartaceo delle guide. Oggi tu sai molto meglio di me che via internet e ancora oggi il passaparola, per fortuna, Dio grazie, il passaparola del cliente che fa girare la voce, le trovo in alcuni momenti, soprattutto in questi periodi, più attendibili. In ogni caso dichiaro che sono decisamente importanti. Questa domanda l'hai posta a me, potrei dire delle sottorighe, però in ogni caso continuano a essere importanti, che siano di destra, di sinistra, di centro, di qualsiasi forza politica o qualsiasi direttore. Sono una via di comunicazione e devono esistere. Bene. Punto. Ma io ho chiesto questa domanda a Battaglia per un motivo, che l'anno scorso lui ha riconsegnato la stella alla guida Michelin. Ecco perché ho fatto questa domanda, che è sicuramente un po' imbarazzante. Bene, io volevo rivolgere ancora una domanda a Battaglia. Battaglia, è la domanda iniziale che ho posto anche ai tuoi colleghi. Ma il cuoco, secondo te, è una professione per il futuro oppure ci sono poche speranze per chi intraprende oggi e per chi vuole intraprendere nei prossimi anni questa professione? No, sfondi una porta aperta, perché da parte mia, ma come dei colleghi che sono passati e sono qua alla mia destra, c'è un forte credo per questo lavoro. E, trovo che sia molto importante discuterne e soprattutto continuare a credere in questo lavoro. Io spesso ho occasione di andare all'estero e quindi conosco un fuori Made in Italy anche della ristorazione. C'è una crescita esponenziale di ragazzi che credono ad diventare dei cuochi e diventare chef. C'è veramente una forte richiesta, vuoi perché magari sono anche cresciuti diversi ristoranti nel giro del mondo, oggi si mangia bene in tanti posti, anche se continuo a dire che il Made in Italy è il mio top, in Asia sono cresciuti tantissimi ristoranti fantastici, quindi Davide, in tutto il globo sta crescendo questo lavoro. Sento famiglie, mi capita di frequentare anche i paesi arabi, adesso in famiglie di classe media, sento già il ragazzino di 12-13 anni che mi guarda e dice: ma anch'io voglio diventare come te. Anche in Asia ci sono queste battute, come a differenza di dire voglio diventare un dottore o voglio fare il questo, cioè mi capita spesso sentire voglio diventare un cuoco, voglio far divertire la gente. È diventata una professione molto seguita dai media, come dicevo prima. Questo. Presto le veline cercheranno un cuoco, uno chef e non più un calciatore, ma mi sembra che voglia intervenire allora. Ferretto, prego Ferretto. Proprio collegandomi al discorso di Nicola, volevo proprio dire se le premesse sono come diceva l'amico Cesare, 14.000 euro al mese, le veline che ti rincorrono, insomma, ai giovani consigliamo pure questo mestiere e questa professione, perché ha sicuramente un futuro grandioso. Ecco. Immagina se noi mettiamo le veline nelle cucine. Per carità, cioè, chi cucina? Quelli che vengono dall'alberghiero. Bene, mi dispiace non dover rispondere perché stiamo quasi concludendo, moltissimi sms, bene. vedo che il discorso della professione del cuoco e degli istituti alberghieri ha veramente preso in special modo i nostri radioascoltatori che hanno telefonato. Magari torneremo sicuramente di nuovo su questo argomento. Bene, siamo arrivati dulcis in fundo, come si dice, e devo dire che queste critiche così ferree contro le scuole alberghiere sicuramente hanno un fondamento, però credo che facendo solamente critiche si arrivi a poche conclusioni. Bisognerebbe anche costruire, cioè fare delle critiche costruttive e indicare dove non funzionano, quindi cosa non funziona. E dovrebbero essere gli stessi chef e cuochi famosi a dare una mano alle scuole e agli istituti alberghieri proprio per capire in quale direzione andare. Bene, abbiamo chiudiamo questa trasmissione. Buona giornata a tutti.